Pensa Unica vi presenta Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Bentornati in studio, Maurizio Melis al microfono e dopo aver parlato di eolico troposferico, di macchine per produrre energia dal moto ondoso e persino di nucleare di quarta generazione, vi chiederete: ma dov'è finito il fotovoltaico? Beh, sebbene anche qui ci siano novità importanti come il fotovoltaico alla perovskite che promette di abbattere significativamente i costi dell'energia solare, più che una tecnologia del futuro, il fotovoltaico è una tecnologia del presente e non c'è dubbio che avrà un ruolo centrale e sempre più importante nella produzione di energia elettrica. Ma adesso è un altro l'argomento che vogliamo affrontare. L'elettricità infatti è uno dei vettori energetici di cui avremo più bisogno, ma oltre all'elettricità avremo bisogno anche di combustibili liquidi e gassosi, di lubrificanti, di materie plastiche, vernici e così via. Tutto questo abbiamo imparato a farlo con il petrolio e ora dobbiamo imparare a farlo a partire dalle biomasse. È la grande sfida di fronte alla quale si trova la chimica verde. E oggi i principali prodotti della chimica verde sono i biocombustibili come biogas, bioetanolo, un alcol che può sostituire la benzina, e biodiesel. Ma con l'eccezione proprio del biogas, bioetanolo e biodiesel di prima generazione sono risultati problematici perché ottenuti da colture cerealicole e oleaginose come il mais o la palma da olio. Si tratta di coltivazioni intensive che richiedono terreni pregiati, un grande consumo di acqua, fertilizzanti, agrofarmaci e quindi indirettamente anche di energia. Ma soprattutto si tratta di colture normalmente destinate all'alimentazione. Ciò ha causato tensioni sul prezzo degli alimenti e ulteriore consumo di suolo. I biocombustibili di seconda generazione sono una prima risposta a questi problemi e stanno comparendo ora. Un'industria chimica italiana, la Mossi e Ghisolfi, è la prima ad aver avviato la produzione su scala industriale di bioetanolo a partire da cellulosa anziché da zuccheri o amidi. La cellulosa è il biopolimero più presente in natura e costituisce circa il 70% in media della massa vegetale. Per esempio, nel caso del mais, usare la cellulosa significherebbe produrre il bioetanolo dal fusto della pianta di mais anziché dalle pannocchie. Con lo sviluppo della seconda generazione si punta quindi a produrre biocombustibili a partire da scarti agricoli e da colture che non competono con quelle alimentari, come l'arundodonax, la canna dei fossi che cresce facilmente su terreni poveri e inquinati. E l'utilizzo proprio di questi terreni, cosiddetti marginali, cioè inutilizzabili dall'agricoltura perché poveri di sostanze nutritive oppure desertici o troppo salini, è l'obiettivo specifico della terza generazione di biocombustibili, di cui uno degli esempi più interessanti è il progetto coordinato da Alessandro Rios Galvan della Masdar University di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Sentiamo. L'Integrated Seawater Energy and Agricultural System è un sistema integrato composto da tre sottoinsiemi. Il primo è un allevamento di pesci e crostacei di mare. Questi allevamenti generano scarti che generalmente finiscono nelle acque di scarico e quindi in mare, causando inevitabili problemi ambientali. Quello che facciamo è recuperare queste acque reflue ricche di nutrienti per alimentare il secondo sottoinsieme, ovvero delle piantagioni di piante alofite che proliferano su terreni salati. Coltiviamo una alofita in particolare, la salicornia, che produce un seme oleoso adatto alla produzione di oli vegetali e biodiesel. In pratica irrighiamo i campi di salicornia con le acque di scarico degli allevamenti di pesci, così che i nutrienti presenti in queste acque agiscano da fertilizzante. Infine, e siamo al terzo sottoinsieme, a valle dei campi di salicornia, le acque di irrigazione vanno ad alimentare foreste di mangrovie coltivate in lunghe strisce di territorio tra la costa e le piantagioni di salicornia. In questo modo si chiude un ciclo. Le acque marine reflue della piscicoltura nutrono le piante di salicornia e vengono filtrate dalle piante di mangrovia prima di ritornare in mare. Ecco, sbaglio però, o oltre a questi oli vegetali che ricavate dai semi di salicornia, con il resto della pianta voi potete anche produrre biogas? Corretto. Tenga conto che un ettaro di salicornia ci consente di produrre circa 2 tonnellate di semi, ma con lo stesso ettaro recuperiamo 18 tonnellate di biomassa, da cui otteniamo biogas e bioetanolo. Il vantaggio del progetto è proprio quello di riuscire a produrre cibo, grazie all'acquacoltura marina, ed energia, sfruttando suolo desertico lungo coste che non possono essere sfruttate per altri scopi. Ma più probabilmente la risposta all'approvvigionamento di materia prima vegetale sta negli oltre 2/3 di superficie del pianeta occupati dalle acque e nelle alghe, in particolare le microalghe, di cui esistono decine di migliaia di specie con le più svariate caratteristiche. Per esempio, la percentuale di grassi presenti in questi microorganismi parte da un minimo del 15% per arrivare all'estremo opposto, fino al 90%. Alghe come queste potrebbero essere cresciute in grandi vasche o, con la dovuta cautela, nel mare, e una volta raccolte e spremute se ne potrebbe ricavare una grande quantità di oli da trasformare in biodiesel, in lubrificanti e altri prodotti di trasformazione, mentre ciò che ne rimane, costituito per lo più da carboidrati e proteine, può entrare nella produzione di mangimi e altri prodotti ancora. Le microalghe sono organismi monocellulari che si moltiplicano con una rapidità straordinaria rispetto alle piante superiori. Secondo uno studio dell'ENEA del 2012, la produttività di un ettaro coltivato ad alghe, in termini per esempio di biodiesel prodotto, è da 49 a 132 volte quella di un ettaro coltivato a colza o a soia. Purtroppo anche i costi di produzione sono molto più alti e ciò rende il biocombustibile da alghe ancora insostenibile oggigiorno dal punto di vista economico. Ma mentre la ricerca sulla seconda e terza generazione prosegue, le difficoltà emerse nel mondo dei biocombustibili hanno spinto la chimica verde a esplorare altre strade, rivolgendo l'attenzione verso prodotti a più alto valore aggiunto e dove i quantitativi richiesti, a differenza dei combustibili, non si misurino in miliardi di tonnellate. È il caso dei lubrificanti, per esempio, di cui ho parlato con Luca Lazzeri del CRA, Consiglio di Ricerca per le Colture Industriali. La natura produce già oli molto diversificati in funzione della loro composizione in acidi grassi e in funzione del fatto che esistono acidi grassi monoinsaturi o poliinsaturi. Sono una terminologia che conosciamo perché riguarda tipicamente l'alimentazione, non a caso. Esatto, no? sì, ma più o meno, anzi, il problema è che molti degli oli che usiamo in alimentazione potrebbero benissimo essere usati anche come lubrificanti. Certo. In questa ottica, quindi, la più grossa problema tecnologico è proprio di conoscenza, che stiamo cercando di diminuire questa nostra ignoranza, ma rimane tale, perché probabilmente i lubrificanti migliori sono ancora nascosti in qualche seme che non conosciamo. Dall'intervista emerge il tema della scarsa conoscenza della materia vegetale. Per millenni abbiamo selezionato varietà di piante con fini completamente diversi da quelli che adesso insegue la chimica verde, mentre esistono migliaia di specie il cui potenziale è tutto da scoprire. Da questo punto di vista c'è una differenza profonda tra la chimica verde e quella tradizionale a base di petrolio. Quest'ultimo significa standardizzazione dei processi ed economie di scala, mentre la chimica verde significa specializzazione ed economie di filiera. È uno scenario senz'altro più complesso da gestire, ma che presenta altri vantaggi oltre a quello di offrire un'alternativa ai fossili. Uno dei più importanti è la possibilità di sostituire gli attuali materiali, come per esempio le plastiche, con altri dotati di prestazioni tecniche superiori. Il PEF, per esempio, è una plastica che può sostituire il PET, quello con cui vengono prodotte le bottiglie per l'acqua, e anche moltissimi altri prodotti. Il PEF è più resistente dal punto di vista meccanico ed è anche meno permeabile ai gas. Spingendoci ancora un po' più in là, infine ci imbattiamo nella cosiddetta quarta generazione di biocombustibili e biomateriali, cioè parliamo dell'idea di spostare la raffineria dentro la cellula, mettendo a punto, anche ricorrendo all'ingegneria genetica, dei microorganismi che producono direttamente quello che ci serve. Metanolo per le automobili, per esempio, oppure plastica, come fa Bion, altra realtà made in Italy, che ha individuato e selezionato un ceppo di batteri esistenti in natura, i quali, anziché immagazzinare grassi come forma di riserva di energia, mettono da parte una famiglia di poliesteri che sono totalmente biodegradabili. Pensate che gli oggetti fatti con questa plastica di origine biologica, se lasciati immersi in acqua di fiume o di mare, oppure se sepolti nel terreno, scompaiono in pochi giorni, divorati da quegli stessi microorganismi che l'hanno prodotta. Il tempo a nostra disposizione è finito, ci fermiamo qui. Da Maurizio Melis, ancora una volta buone feste e buona continuazione qui su Radio 24.